fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci, eccoci qui di nuovo in radio, Risto Radio Convento live nuovamente questo sabato sera in diretta dalla nostra web radio, come vedete sempre molto molto affollata e come è giusto che sia, e finalmente riusciamo a esaudire un sogno, un desiderio di una ragazza che è tipo da mezzanotte e mezza che ci dice che vuole entrare in radio. Dell'anno scorso assolutamente, era ancora il 2018, erano ancora minorenni tutti loro, esatto. E siamo riusciti finalmente a farle provare questa, o meglio riprovare questa emozione, perché ricordo che era già stata qui e quindi... Davvero? Non lo so, me l'hai detto tu. Ma certo! Me l'hai detto dentro. Si ricordava un cacchio. No, io mi ricordo. No, me l'hai detto dentro, me l'ha detto in un'altra zona. Così proprio buttati. Cazzo detto? Tu più vicino al microfono. Scusami. Captazio. Captazio. Bene, non è male. Io avete voluto qua? Sì, ti vogliamo. Esatto. Adesso ve lo sorbite. Vi dico che ha il ciclo in questi giorni, quindi è suscettibile. È leggermente suscettibile. Sì. Al ciclo, insomma, sono quei 4 giorni al mese ogni tanto. Allora, l'altra volta ti abbiamo raccontato una storia di incesti. Ah, è vero. Sull'incesto sono forte, me la ricordo. Cioè, non me la ricordo per filo e per segno, però mi ricordo una storia di incesti. No, mi ricordo. Non me la ricordo. No, mi ricordo l'argomento, mi ricordo il macro argomento, però non ricordo i dettagli. Rinfresca la memoria. Ti assicuro che è meglio. Rinfresca la memoria. No, ti ricordi chi è mio fratello? Lui. No. Avevi un 50-50, hai sbagliato. Ta-na. Ah, allora lui. Era lui. No, ricordaci come va. No, basta parlare di questa cosa. No, riassunto, è tipo Beautiful, sai che diretta la puntata nuova, dopo. Storia nuova. Ah, esatto. Stavolta non parlare di droga. No, parliamo di droga, no. Diamo messaggi positivi. È positivo. Eravamo felici. Facciamo sigarette divertenti. Scusa, hai detto qualcosa sulla droga? Dai, vedi che lui si trasforma quando sente parlare di sostanze, sì, eccitanti, stupefacenti. Ci vediamo in stazione allora. Si trasforma, assolutamente. Cosa sì. Vuol dire quello lì fuori? Non lo so. È l'aria condizionata. No, penso che ce l'abbia col signore col camice bianco. Lo sta richiamando all'ordine. Comunque io non so il ciclo, perché sono in premenopausa, va bene? Esatto. Ecco. In premenopausa, che è il momento peggiore della vita, perché uno si rende conto che... Che tra pochissimo... Parlate per voi. Ecco. Ma di droga non possiamo parlare. Dai, parliamo di droga. Allora, così esaudiamo il una storia bellissima. Ma no, ma perché sempre io? E poi perché Aldo ha una storia quello lì è una storia. Anche perché c'è il desiderio di venire e tornare in radio era suo, e quindi è giusto che la storia la dica lei. Le storie sono comuni. Vi racconto questa storia. Eravamo Se racconti una storia devi iniziare con C'era una volta. Esatto, se no non vale. 4 allegri ragazzi che si divertivano, diciamo, un raduno di arrampicata. Io non c'ero. Questo raduno di arrampicata si tiene solitamente i primi di maggio in zona, diciamo, verso la Valtellina. Sì. Ecco. E niente, c'era un nostro amico che era appena tornato dalle vacanze, diciamo, in Marocco, e era andato lì con la macchina e era tornato con molte cose divertenti, no? Che storia! Minga! E niente, si fa, vabbè, dai, proviamole sulla... sulla parete. Vabbè, eravamo in festa qui e là. E niente, no, si fa tardi e tornando verso la tenda, perché dormivamo in tenda, sentivo masticarmi dentro la schiena, no? Tipo dentro, sì. Dentro le orecchie. Le orecchie. Io pensavo raccontassi un'altra storia. Quale storia? Ma quante? Quante storie ci sono? Quella prima di... Ah! Quella sì, ancora meglio, scusate, è vero. Cambiamo storia. Sì, cambiamo storia. Perché quella è più bella. È molto più bella. Bello della diretta. Esatto, no, ma vedi, non c'è scaletta, non c'è vabbè, sceneggiatura. Niente, stavamo salendo su per andare a questa festa. Questo era l'anno dopo, però. Niente di... Oh, ragazzi, quest'anno non portiamo niente, magari solo le birre. Ok. Va bene. Tutto a posto. Niente, carichiamo la macchina, eravamo pieni come un uovo, praticamente avevamo l'Audi del nostro amico che, cioè, se la aprivi esplodeva fuori la roba. Se la polizia si sente può cambiare canale, ecco. Sì. Va bene, dai, adesso che... Tanto è storia passata, ormai è andata, esatto, in prescrizione. Ormai è andata in prescrizione, esattamente, esatto. Si passano più di 5 minuti. Comunque, niente, stiamo partendo e poi tra l'altro durante il viaggio fantasticavamo della serie, ma chissà come sarebbe andare in carcere, qui e là, vabbè. Vabbè, insomma, sono tipici discorsi da macchina, no? Vabbè, no? Che potete usare in... che ci stiamo mettendo la faccia. Esatto. Che potete usare tra l'altro in ascensore tutte le mattine, insomma, giocatevi di questi discorsi. Io non li conosco, giuro. No. Io sono girato di spalle. È nostro amico. Io sono girato di spalle. No, va bene. Ok, quindi. C'era un nostro amico che aveva portato delle cose divertenti senza avercelo detto, no? Sì. Vabbè. Niente, cosa arriviamo? Arriviamo a questa festa qua. Diciamo che il mondo dell'arrampicata è sempre un po' associato, purtroppo, a questo mondo. Mister Dave nasconde la faccia. Esattamente. Tra l'altro ricordiamo che c'era fornita. Vabbè. E niente, arriviamo lì, ma troviamo un mega posto di blocco. Perfetto. E allora gli facciamo al nostro amico: ma sei sicuro di non aver portato niente? E comincia a vacillare, a sudare freddo. Vacillare da serie. No, ragazzi, qualcosa l'ho portato dietro. Compreso di Digos con cani. Sì, sì, c'erano i cani. Ah, proprio i cani, anzi. C'erano due motocross davanti, una Jeep, una camionetta. Sì, sarà stati lì in 10. Io dico, ma è un assetto da attentato, esatto. Ok? Niente, vabbè, tra l'altro, essendo una località di montagna, ha parecchie curve, no? Tira giù il finestrino lui e vedi, si vede che la faccia è un po' bianca e fa... Cosa? Sì, sì. Tu è normale, dopo le 3 del mattino è così. Tu hai l'aria di uno che ha fumato. Ma non fa, guardi, no, cosa stavi dicendo? Non ho fumato, se c'erano le curve io soffro la macchina. No, non ci credo, non soffri la macchina, tu hai fumato. No, e continua. È vero, niente, prosegue così, no? E volevano perquisirci la macchina, solo che effettivamente, come dicevo prima, eravamo veramente pieni, cioè per poter togliere. Sì, beh, esatto, cadeva tutto, esatto. Sì, nel senso c'era una quantità di robe che sembrava un circo. E non volevano svegliare i poveri cani che erano in pausa. Fortunatamente. E niente, no, proseguendo qui e là gli fanno: ma cos'è che hanno detto? Ma se ce l'avessimo, cosa faresti tu? E gli ho detto: a quanto la faresti se ce l'avessimo? E subito, cioè, lì volevi vendergliela? No, ce voleva comprarla dal polotto della Digos. A questo punto, se mi fai l'offerta, certo, trattiamo. Esatto, e lui: no, ragazzi, questi ce l'hanno, scendete dalla macchina, scendiamo dalla macchina. Niente, ci hanno chiesto tutto sulle nostre vite, dopo un quarto d'ora di terrorismo psicologico ce la siamo cavata. Però alla fine, della serie, tipo, no, guardate, se volete fate pure la perquisizione, ma poi rimettete voi su tutto, perché... Certo. Ma la cosa che hanno saltato... E per la pigrizia non sono andato in fondo. La cosa che hanno saltato è che Fabio continuava a dire: per conto mio non ho niente. Della serie, no, io non ho niente, poi non so niente. C'è il classico Ponzio Pilato, no? Io me ne lavo le mani, se volete condannare Barabba o Gesù, sono fatti vostri. Posso dire la mia discolpa, che dopo ho cercato di riprendermi, tipo flirtando con la polotta. Con la poliziotta, sì. Ah, però, temerario, flirtare con la polotta, con la poliziotta. No, che è stata anche molto carina, e gentile, quindi... Ti ha lasciato il numero? È stato lui. No. Ah, okay. Guarda, è meglio così. È meglio così. Non si sa mai che poi dopo sia rintracciabile. Vabbè, assolutamente. Poi però comunque il fascino della divisa, ci sta. Ci sta. No, se metterci la faccia, va. No, si sta pentendo. No, sai cosa? Si sta pentendo. Si sta pentendo di aver messo le webcam, secondo me, proprio di aver installato questo sistema. È certo che l'ha messo lui. Proprio su grande con grande gioia, no? Facciamo questa bella cosa. Beh, però esatto. Era proprio una storia incredibile. Facciamo questa. Sì, certo, era veramente incredibile. Poi è andata a finire bene. Però adesso per nobilitare la tua figura e il tuo animo, manda un messaggio positivo a tutti quelli che ci stanno guardando. Allora, parliamo ad esempio di queste serate dove spesso comunque si sta fuori fino a ora tarda, si beve anche magari, diciamo, non proprio l'acqua naturale, neanche quella frizzante, e poi ci si... Ma l'olio minerale, che è, insomma, la cosa in mezzo. Ma poi dopo, ovviamente, arriva anche il momento di tornare a casa, no? E uno dice: vabbè, magari ho bevuto qualche birra. Cioè, io non è che dico che non dovete guidare se non avete bevuto. Cioè, fatevi ritirare la patente, no, come me. Nel senso, se lo reggete l'alcol, bevete, cazzo. Cheat. In realtà la cosa è: facciamo guidare quello che è stato malato per circa una settimana. Cioè lui. Letto, cioè io, e mi sono svegliato tipo stamattina e mi hanno detto: chi facciamo guidare? Lui. Che però? sobrio e sano, normale, esatto, martire della causa. Bene, bene, dai, ci fa piacere che abbiamo concluso con messaggi positivi. No, concluso la storia, concluso la storia. Purtroppo noi dovremo essere chiamati all'ordine a brevissimo. E niente, allora grazie. Vuoi dire qualcosa, visto che l'hai aspettato per tanto tempo, che poi dobbiamo chiudere? No. No, bene. Io volevo salutare Roddy, che purtroppo ci saluta da dietro le sbarre. Ah sì, ciao Roddy. Fermi o poi verrai arrestato, però vabbè, oggi no. Bene, diciamo una bella compagnia di andiamo amici. Andiamo allora ad Aria, dai, ciao. Una bella bella compagnia di amici, ci fa piacere. Grazie allora ragazzi per averci regalato un po' del vostro tempo. Probabilmente una delle ultime occasioni, perché a quanto raccontate a brevissimo insomma, vi beccheranno di quelli che sono dentro. Esatto, quindi probabilmente questo sarà un buon progetto. Sarà un buon progetto, noi vi appoggeremo. Sappiamo come ampliare. Esatto. Ma io faccio i lavori socialmente utili. Cioè esatto. Non ci vado in prigione. Esatto. Come aumentare il pubblico. Ma però la voce è calata. Tu potevi decidere se fare la prigione sì, o la. Niente prigione, solo lavori socialmente utili. Ricordate, ragazzi. Vabbè, dai. E quello aiuta. Poi c'è sempre la buona condotta. No, ci sono tutte quelle belle cose che vi aiutano. Certo che però avere nel curriculum una settimana di carcere. Non è male, non è male. Sono andata in canile. Lo so però. No, parlava per massimi sistemi. Potevi scegliere, no? O canile o prigione. Bene. Ma canile, no, ovviamente. Un posto vicino a quell'altro. Ma secondo me si trova anche delle persone interessanti, però. Bene, lo capiremo nelle prossime storie. Grazie allora, ragazzi, intanto. E ci risentiamo alla prossima storia incredibile. Ciao! Ciao!